Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Ritorno ringiovanito. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso. Ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai. 10 anni fa avete sentito le parole di Giovanni Paolo II, l'indimenticabile giornata mondiale della gioventù a Roma, a Tor Vergata. Ma quest'anno si festeggia anche un altro importantissimo anniversario, i 25 anni della GMG, voluta dal Papa Polacco. In attesa dell'appuntamento internazionale Madrid 2011, Benedetto XVI, come ogni anno, il 25 marzo incontrerà i giovani di Roma. Ne abbiamo parlato con Don Maurizio Mirilli, responsabile della pastorale giovanile. Ci sarà un momento prima di tutto di festa, di ricordo, di memoria dei 25 anni delle giornate mondiali della gioventù. In modo particolare ci soffermeremo sulla prima, quella del 1985, su quella del 2000, quella famosa che ricordiamo ancora di 10 anni fa, no? A Tor Vergata, e l'ultima a Sydney, questo nella prima parte. Nella seconda parte poi ci sarà un momento un po' più di preghiera, di ascolto, diciamo, del Vangelo scelto per l'occasione, e soprattutto di ascolto delle risposte che il Santo Padre darà a 3 giovani. E secondo lei quali sono stati in questi anni i frutti delle giornate mondiali della gioventù? Frutti di famiglie cristiane, di vocazioni sacerdotali o alla vita religiosa, oltre che di laici, giovani, adesso un pochettino più grandi, più maturi, adulti, impegnati non solo nella vita della Chiesa ma anche nella società, insomma, con una scelta radicale, forte, della sequela di Gesù Cristo e quindi anche dell'impegno, no? Che ne deriva. Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Fu Giovanni Paolo II a coniare l'espressione sentinelle del mattino. Ma chi sono oggi le sentinelle del mattino e cosa fanno? Ce ne parla Don Andrea Brugnoli. Il nome l'abbiamo preso proprio da lì, nel 2000, e guardando a Tor Vergata a Roma durante la GMG, 2 milioni di giovani in rappresentanza di tutti i giovani del mondo, disse: vedo in voi le sentinelle del mattino, se sarete quello che dovete essere porterete il fuoco sulla terra. E abbiamo preso quello slogan, quel richiamo del Papa ad essere sentinelle, e ci siamo chiesti un po' che cosa significa essere sentinella. La sentinella è quella che di notte sta sveglia, veglia su quelli che dormono, e anzi sveglia quelli che dormono quando arriva il pericolo, quando c'è qualche evento particolare. E abbiamo pensato che in quell'occasione il Papa ha chiesto proprio ai giovani di essere delle sentinelle, cioè di svegliare quelli che dormono. Chi è che dorme oggi? Dormono le nostre parrocchie, dorme un po' la Chiesa, che si è un po' rinchiusa in se stessa e non esce più sulle strade come faceva Gesù, e abbiamo voluto quindi portare i giovani ad andare in strada, sulle piazze, nei luoghi del divertimento, per testimoniare l'incontro che questi giovani hanno fatto, l'incontro con Gesù. Ci ricordi qualcuno dei vostri progetti? Siamo andati un po' ovunque, siamo stati negli autogrill ancora qualche anno fa, siamo stati sulle spiagge, insomma cerchiamo di incontrare i giovani lì dove ci sono, ecco, soprattutto nei luoghi d'inverno di ritrovo, quindi vuol dire il centro città, le piazze. I giovani rispondono con grande interesse, perché non è un prete che va a parlare a loro, ma sono i giovani stessi. Dilaga purtroppo il fenomeno delle sette in Italia. Qualche giorno fa l'arresto di un santone a Roma che stuprava bambine. L'associazione Papa Giovanni XXIII di Don Benzi dal 2002 ha attivato un telefono antisette. Ce ne parla Donaldo Buonaiuto. Le metodologie sono le più svariate, dal adescare la persona attraverso per esempio il mondo della musica, moltissimi usano internet, e ovunque ormai si trovano persone proprio che hanno il compito di diffondere attraverso volantini, libri, telefonate, degli inviti, dei corsi che anche a volte hanno la parvenza proprio di incontri incontri buoni, diciamo, che possono aiutare la persona a migliorare il proprio stato d'animo, la propria salute mentale, nella carriera, nel lavoro. Non dimentichiamo che la maggior parte delle persone che cadono nel mondo delle sette, in queste trappole, sono persone che stanno passando momenti di grandi difficoltà. 800 22 88 66, perché tutti coloro che sanno non facciano finta di non sapere, per dare aiuto e forza a chi magari ha paura. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Il filosofo Emanuele Severino, classe 1929, certamente pensatore acuto e geniale, concesse giorni fa a uno dei quotidiani della Svizzera italiana un'intervista nella quale si espresse così, e cito: «Nel futuro non sarà più il capitale o la democrazia a servirsi della tecnica, ma sarà la tecnica a servirsi della democrazia, del capitale o della religione per incrementare la sua potenza». Il filosofo Severino è un appassionato assertore di questo rovesciamento epocale. Siamo arrivati a un punto, afferma, in cui la tecnica sembra essere diventata onnipotente. L'uomo sta sottoponendosi a ciò che la sua stessa intelligenza ha prodotto. In qualche modo il mostro da lui stesso prodotto gli è scappato di mano. Ma in che cosa consiste questo prodigio che è la tecnica, che sembra aver soppiantato persino Dio? Ecco il punto cruciale: si può essere contenti senza essere veri. A volte, dice Emanuele Severino, nella vita ci può tornare utile mentire, ma la menzogna rimane sempre menzogna. Proprio così avverte il filosofo. Ne prendano atto i veri scienziati. Per il sapere scientifico, quello autentico, se si vuole essere veri non si può essere potenti. Per avere potenza, quella cioè che si fa beffe della persona e della vita umana, occorre rinunciare alla verità. Per questo, affermo io, la Bibbia chiama il demonio il padre della menzogna. In questo Severino è rimasto nel grande solco del pensiero cristiano e della dottrina sociale della Chiesa.